Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi teniamo i piedi per terra. Lo facciamo abitualmente, vero, dato che siamo bipedi, ma oggi cercheremo di capire come lo facciamo. Ci sono dei modi empirici per scoprirlo. Il primo è guardare sulle tacche delle nostre scarpe. Osservatele e chiamatemi 800 24 00 24 per dirmi dove si consumano di più. So che molti di voi mi seguono da casa, magari qualcuno di voi ha appena fatto la doccia e ha ancora i piedi bagnati. Allora osservate l'impronta sul pavimento. Anche per voi il nostro numero verde è a disposizione. In linea con noi oggi abbiamo la dottoressa Laura Bertelé, ortopedico, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo e autrice di un libro di cui abbiamo già parlato, si intitola Ascolta e guarisci il tuo corpo, Mondadori editore. Buongiorno dottoressa Bertelé, bentornata. Buongiorno a voi. Dottoressa, ciascuno di noi appoggia i piedi per terra, ma non tutti lo fanno allo stesso modo e non tutti riescono a farlo in modo funzionale al proprio benessere posturale. Ci aiuta ad avere una maggiore consapevolezza di questa funzione che, come scopriremo nel corso della puntata, non è soltanto fisiologica. Penso che la cosa importante sia proprio fare attenzione a come appoggiamo il piede. A volte noi camminiamo, ci spostiamo senza proprio pensare ai piedi, facciamo che vadano automaticamente. Ogni tanto è importante pensarci, ascoltare e renderci conto come, ad esempio, appoggiamo il piede all'inizio del passo, se facciamo tutto il movimento di rotolamento sul piede, come viene data la spinta per fare il passo successivo. Molto spesso non ci appoggiamo sui piedi, è un po' come se fluttuassimo, lasciamo che il piede vada per conto suo. Io penso che sia molto importante rendersi conto di come stiamo in piedi. Dottoressa, possiamo dare un'occhiatina alle nostre scarpe che ci raccontano molto anche del modo in cui appoggiamo i piedi? Ad esempio, se i talloni convergono verso il basso e sono deformati nella parte interna, che cosa vuol dire? Allora, se la parte è deformata, soprattutto consumata la parte interna del tallone della scarpa, del tacco, vuol dire che il piede appoggia sulla sua parte mediale. Sostanzialmente si dice un piede pronato. Sì. Se invece appoggia ad esempio sulla parte esterna si dice supinato, cioè nel senso che il piede appoggia soprattutto sulla parte laterale. Però ecco, quello che vorrei sottolineare è che sia in un caso sia nell'altro il risultato dell'appoggio dei piedi è sempre una conseguenza della posizione del ginocchio, in quanto il piede appoggia in un modo o nell'altro a seconda di come il ginocchio è ruotato, e a sua volta il ginocchio ruotato dipende dall'anca, che a sua volta dipende dalla schiena. Diciamo che la causa e quello che modifica e modella il nostro appoggio al suolo è la schiena. Insomma, tutto parte dall'alto, esatto, dottoressa, sì, Bertelé. Sì. A meno che ci sia un trauma specifico nel piede, ad esempio una frattura di un calcagno, per esempio, che dà un appoggio scorretto a livello del piede, ma che a sua volta poi si rifletterà sulla schiena, che poi riporterà il problema ancora sul piede. Dottoressa, noi siamo programmati, nati, no, per camminare scalzi, ma dobbiamo mettere le scarpe. Vogliamo dare qualche indicazione sulle scarpe ideali? Temo che noi e i nostri piedi abbiamo dei gusti differenti. Sì, ecco, sono molto contenta di sottolineare questo discorso, perché è fonte di molte patologie. Le scarpe... Allora, siccome diceva lei, siamo nati per camminare a piedi nudi e quindi le scarpe ideali sono quelle più naturali, quindi con una pianta molto rotonda, senza tacco, molto flessibili, che ci permettano di fare una camminata come se fossimo a piedi nudi. Questa sarebbe la scarpa ideale. Sì, però... Però è qua che la voglio. Della moda, ad esempio. Sì. A volte vengono da me delle signore con mali piedi, alluce valgo, metatastalgie... e mi dicono, ah no, ma io devo usare i tacchi. E beh, uno paga il prezzo, come dire, paga il prezzo all'estetica, all'immagine, però i nostri piedi sono fatti per stare a terra, insomma, per camminare a piedi nudi, possibilmente tra l'altro sulla sabbia, cioè su un terreno che sia plastico, ecco, non rigido. Senta, dottoressa Bertelé, però lei sa che ci sono delle donne che devono portare i tacchi, nel senso che appena scendono dai tacchi, usano delle scarpe piatte, avvertono dolore e dicono, io tutto sommato, che ne dicano gli ortopedici, che io con il tacco cammino bene, appena scendo ho dolore. Come mai? Ecco, questo è già un sintomo per noi molto evidente che la regione lombare è contratta e accorciata, cioè che la muscolatura della schiena è già accorciata e bisogna allungarla, perché se fisiologicamente non riusciamo a stare con i piedi a terra, sì, col calcagno a terra, vuol dire che la regione lombare non si lascia allungare e rimane in lordosi. Vuol dire con la curva concavità posteriore, insomma. Quindi questo è un segnale da non trascurare. Assolutamente. Si no, può è già un segno, sì. Senta, si può correggere, si può fare certo, qualcosa. Certo. Bisogna ammorbidire e allungare la muscolatura della schiena, appunto, con un lavoro specifico. Un'altra cosa che volevo aggiungere, ad esempio, un piede che non cammina bene con una scarpa rigida o troppo stretta o proprio con una patologia nel piede dà dei riflessi fino alle spalle. Infatti si vede che le spalle sono in disequilibrio quando la persona non appoggia bene. Io vorrei parlare anche dei piedi dei nostri bambini, perché arrivano già tanti messaggi delle mamme al 349-238-6666 che mi descrivono la camminata dei loro bambini. Ma ho Paolo che ci aspetta dalla provincia di Como, che voglio salutare e a cui voglio dare il benvenuto. Buongiorno Paolo. Buongiorno, ogni tanto è un piacere di parlare con lei. Oh, grazie. Ascolti, sì, volevo fare una domanda per mia moglie. Mm. Succede che sul piede sinistro è già quattro volte che compare una ciste. La prima volta era una ciste chiamata del periosteo. Però adesso si stanno già tre volte che gli aspirano delle cisti acquose. Sì. E siccome ha anche gli alluci valghi, non vorrei che dipendano dalla cattiva postura queste cisti, perché altre spiegazioni non me ne hanno date. Dottoressa Bertelè, grazie. Un piede un po' problematico con cisti, prima ha subito già degli interventi, alluce valgo, lei che cosa suggerirebbe? Già di non mettere i tacchi? No, innanzitutto è quel discorso di non mettere i tacchi, ma al di là di quello vuol dire che c'è già un appoggio alterato che bisogna correggere partendo sempre dalla schiena. Assolutamente ragione la persona che ha parlato, Paolo, dicendo che può dipendere dalla posizione del piede. Quando c'è una cisti tendinea vuol dire che il tendine lavora non in asse, non bene, non in modo corretto, e quindi si forma un versamento all'interno della guaina. È già un segno che il piede non è ben posizionato, bisogna riuscire a rimetterlo in asse partendo sempre dall'alto, come dicevamo prima. Dottoressa Bertelè, non è mai troppo tardi? Mai troppo tardi. Questo, e poi cercheremo di capire come, quali sono i trattamenti, come si riassetta, sì, no, il nostro corpo, perché siamo proprio tutti collegati. Noi pensiamo solo al piede, ma dobbiamo salire, lei parlava del ginocchio e l'anca e le spalle, dobbiamo un po' sciogliersi e ritrovare la simmetria. Ma dottoressa Bertelè, vogliamo dare un occhio ai piedi del nostro bambino, al modo in cui li appoggiano e a come li muovono? Ci sono dei bambini che camminano sulle punte, ad esempio, altri che camminano con le punte verso l'interno. Lei che consigli si sente di dare? Aspettare? Correggere? Rivolgersi al medico? Che si fa? C'è un aspetto fisiologico nel bambino, che è quello di un piattismo, che è dovuto a un'angolazione del collo del femore, che è fisiologico, diciamo, è normale fino ai 3 anni. Sì. Infatti non si dovrebbe mai correggere un piede del bambino, mai, in nessun modo, fino ai 3 anni. Ecco, poi dipende, come al solito, dalla schiena, nel senso, se il bambino rimane in una posizione un po' infantile di iperlordosi, cioè con una accentuazione del sederino in fuori, per intenderci, sì, è molto più facile che abbia il piede piatto. Ecco, la tendenza all'equinismo è una tendenza che, secondo me, non a caso sta aumentando in questi ultimi anni, e che è proprio caratteristica di bambini un po' speciali, cioè quelli che sono tendenzialmente un po' fra le nuvole, che sono molto sensibili, molto creativi, in genere longilinei, che non vogliono stare con i piedi per terra, cioè proprio tendenzialmente, se si esclude naturalmente una patologia neurologica, che certo, è la prima diagnosi da fare, ce ne sono sempre di più che hanno un atteggiamento di questo tipo. Guardi, ieri ne ho visti 2, per esempio. E che cosa gli ha detto? Com'erano questi piccini? Beh, sono bambini, appunto, un po' speciali, come dicevo, molto sensibili, a cui bisogna che proprio bisogna aiutare, perché rimettono i piedi per terra facendo un lavoro sul corpo, di ammorbidimento, di allungamento delle catene, della muscolatura, e poi anche un po' aiutarli a prendere contatto attraverso la creatività con la materia. Quindi qualcosa che li avvii a un discorso di relazione con se stessi più tranquillo e anche col mondo esterno. Infatti, dottoressa Vertelè, l'appoggio, l'abbiamo anticipato in apertura, non è soltanto una questione meccanica e fisiologica, ma sottende, se vogliamo dire, un correlato emotivo, che racconta il modo in cui proprio siamo nel presente, nella vita. Le patologie di piedi o caviglie riguardano la nostra difficoltà o incapacità di reggerci da soli, di sentirci liberi, di radicarci nel presente e nel reale. Spesso i pazienti mi dicono: mi stringe, sento male appena mi muovo, è come se avessi una palla al piede. Oppure: appena carico mi fa male, mi sembra di camminare sulle uova, è come se fossi sospeso nel vuoto, mi sento instabile. Dottoressa Vertelè, abbiamo chiesto alla nostra brava Alessandra De Luca di leggerci un breve estratto del suo libro in cui lei proprio dà una lettura di, no, più olistica dell'appoggio e dei problemi che noi avvertiamo al piede. Certo, non dobbiamo mai dimenticare che i piedi sono le nostre radici, cioè il nostro modo di radicarci nel presente, nel mondo, e quindi ad esempio c'è una importante attenzione che dobbiamo dare a quando fa male il piede, perché ci segnalano che stiamo facendo fatica ad aderire a quello che facciamo, a quello che siamo, a quello che stiamo facendo anche. Quando una persona mi dice faccio fatica a muovermi, ad appoggiarmi, è un segnale molto importante per la persona. È importante che la persona si ascolti, come spiega il suo dolore, che parole usa, in modo di capire che cosa il suo corpo gli sta dicendo. Allora, ci aiuta, dottoressa Vertelè, a farci le domande che ci servono, che ci possono aiutare? Direi che la cosa molto importante è proprio chiedersi che cosa mi fa male, come mi fa male, quando mi fa male, in che movimenti. E già con la risposta si ha moltissimo dell'informazione che il corpo ci dà. Ad esempio, appunto, una persona può dire mi fa male quando mi appoggio, evidentemente in un momento di crisi nel suo modo di appoggiarsi agli altri o di far appoggiare gli altri su di sé, nel suo modo di muoversi verso gli altri. E è fondamentale ascoltare come se noi sentiamo il terreno, perché spesso siamo proprio sospesi, certo. Cioè facciamo fatica a radicarci nel presente, come diceva prima lei, è proprio il qui ed ora che dobbiamo vivere, non fuggire verso l'avanti o guardarsi sempre indietro. Quello che è indietro è passato, quello davanti verrà ed è un dono del futuro, appunto. Dottoressa, lei nel suo libro racconta la storia di Barbara, una giovane donna con un dolore ai piedi che parte da lontano, direi dal cuore. Ce la vuole raccontare? Sì, ecco, è la storia di una signora, di una giovane donna che era venuta a vedermi perché aveva questo problema ai piedi, un dolore molto intenso, e facendole le domande a quando risaliva, quando era comparso il dolore, è emerso che l'inizio del dolore seguiva da poco, di pochi giorni, la verifica, cioè il riscontro da parte sua di un tradimento del marito, di cui si era purtroppo accorta casualmente in quelle maniere tragiche per la persona, che era stato un sms inviato per sbaglio a lei, ecco, chiaramente. Un classico, no? Ecco, sì, un drammatico classico. Senta, dottoressa Vertelè, ma mi perdoni, la lettura della patologia del dolore al piede come espressione di questo disequilibrio emotivo, meglio di una difficoltà di adattamento nello stare con i piedi, nel qui e ora, non rischia di trascurare la parte più organica del problema, insomma l'approccio olistico, mi passi questo termine, non espone al pericolo di trascurare il particolare, se lo chiederanno in molti? No, non bisogna trascurarlo, infatti non a caso io parto da una base di tipo ortopedica, da questa formazione straordinaria che ho avuto in Francia col metodo Mézières, che mi aiuta a vedere che cosa fisicamente non funziona. Certo, questo è il primo passo. Poi si può dare, eventualmente aiutare la persona a capire che cosa vuol dire, ma dobbiamo comunque rimanere strettamente legati al corpo, perché è il corpo che ci parla. Se no possiamo dare delle interpretazioni assolutamente fantasiose, ecco, un po'. E anche, se vogliamo, un po' pericolose, esatto. Che non ci portano, come si dice, da nessuna parte. Assolutamente, assolutamente. Cristina, buongiorno, 800 24 00 24. Buongiorno, io volevo porre due quesiti. Allora, il primo riguarda, volevo chiedere questo, quali calzature o non calzature è meglio indossare quando si è a riposo, quindi quando si arriva a casa, così. La seconda invece volevo chiedere per una cosa per mia figlia, perché ha 28 anni ed è da qualche anno che ha uno sperone all'esterno del tallone, proprio verso l'esterno, non è lo sperone calcaneare classico, è una cosa che noi chiaramente non si nota, no? Però è proprio un ingonfiamento dato dall'osso e che addirittura noi ci ridiamo un pochino perché le buca le scarpe dietro, anche le scarpe da tennis. Sì. Ecco. Che cosa si poteva fare per questa cosa e se c'è qualche trattamento del tipo ambulatoriale, ecco, ultrasuoni, non so, qualsiasi cosa. Grazie. Allora, grazie a lei Cristina. Dottoressa Bertele, quando siamo a casa buttiamo le scarpe, camminiamo a piedi nudi? Molte persone invece indossano le pantofole, altri le calzine antiscivolo, si usano soprattutto per i bambini. Una buona idea? Sì, direi che la cosa importante è togliere le scarpe, poi uno può scegliere le antiscivolo oppure delle pantofole molto morbide come quelle di lana cotta, per intenderci, che siano proprio, che si modellino intorno al piede e lo lasciano assolutamente libero e caldo. Oggi con questo freddino quasi le abbiamo magari già messe via con le cose dell'inverno, conviene tirarle fuori. Sì. Mentre questa specie di speroncino, Cristina dice prendiamo un po' in giro la nostra ragazza perché buca tutte le scarpe, ma che cos'è? Perché qualche cosa che esce dal piede, no? Allora, guardi, gli speroni come si chiamano delle entesopatie, nel senso che sarebbe un nome complicato per dire che è una sofferenza dell'inserzione tendinea. E è sempre un segno, come dicevo prima, di una tensione della muscolatura, poi appunto in base a dove è lo sperone si capisce qual è il muscolo che è più accorciato e che tira di più. E quindi bisogna lavorare sull'insieme della muscolatura, non è mai un problema mai segmentario. Ad esempio gli speroni a carico del calcagno, ovunque siano, sono un segno di grande tensione, sempre della regione lombare, sempre della schiena, quindi è come se fosse un elastico troppo corto che parte dalla schiena e tira troppo sul calcagno e fa soffrire l'osso, il punto di inserzione del muscolo. Dottoressa Bertele, bisogna imparare ad ascoltare il corpo e soprattutto a vederlo in un'altra ottica, quella che lei insegna nel suo libro, insegna quotidianamente con il suo lavoro, ma a che mani affidarsi? Insomma, quali sono i trattamenti, la riabilitazione, la ginnastica, i massaggi che aiutano il terapista a lavorare sul nostro corpo e a noi a stare meglio, a riassettarci, a ritrovare un nuovo equilibrio, perché la collaborazione è fondamentale, no? Certo, infatti non c'è un metodo che è risolutivo per tutto e per tutti. Il metodo di base è quando c'è una patologia importante, quindi già con deformazioni ossee, con sofferenze importanti, con neuropatia ad esempio, perché spesso vengono coinvolti anche i nervi, è una rieducazione posturale. Ecco, io chiaramente consiglio il metodo Mézière-Bertelet perché è questo metodo straordinario che ho imparato in Francia e che è veramente eccezionale. Ci spiega in che cosa consiste e magari rimandiamo anche a degli altri metodi? Facciamo un po' un confronto? Certo. Il metodo Mézière è basato proprio su un allungamento muscolare di questi insiemi di muscoli, cioè Mézière ha raggruppato i muscoli in 5 grossi elastici, per intenderci, che sono raggruppano i muscoli fondamentali e più antichi dal punto di vista filogenetico e che schiacciano e deformano il corpo. Quindi il metodo consiste proprio in uno stretching globale, per dire in una parola molto semplice, banalizzando il metodo, ma insomma per intenderci. Quindi è un allungamento che il terapista fa sulla persona e la persona da sola non può autoallungarsi completamente. Certo. Può fare un lavoro segmentario ma non globale. Quindi lo riserviamo a quando c'è un inizio di patologia importante o ci sono patologie anche neurologiche come noi seguiamo o riguardo i piedi già artrosiche con deformazioni. Poi c'è il mantenimento e per il mantenimento ci sono effettivamente altri metodi molto efficaci come può essere il Feldenkrais, l'antiginnastica, i massaggi che aiutano e rilassano, l'ayurvedico, lo shiatsu. Ma poi, ad esempio lo yoga che lavora anche sulle fasce muscolari mi sembra, potrebbe essere una buona terapia, una strada per prevenire queste asimmetrie, per sciogliere questi blocchi? Perché guardi, lo yoga ha il problema per quanto riguarda noi occidentali che forza molto la cintura lombosacrale, a cui che in noi occidentali è abbastanza rigida, quindi va bene se una persona è già molto sciolta, e poi va bene per tutto l'aspetto meditativo, diciamo più sì, spirituale, ecco, in quel senso senz'altro, però per noi occidentali forza un po', sia le anche sia la cerniera lombosacrale. Mentre ci sono altri metodi, il Tai Chi ad esempio va molto bene, io ne parlo a lungo nel libro perché penso sì, che sia un tipo di ginnastica medica che può essere, in Cina lo fanno fino a 90 anni, fino sì, a questo, e si può prolungare nel tempo, è eccezionale come mantenimento. E come... poi io non l'ho mai provato, ma da quanto ho letto, l'ho letto anche nel suo libro, mi sembra molto rispettoso, delle non solo delle nostre fasce muscolari, ma proprio dei nostri tempi, mi sembra... È un'educazione. È un'educazione, sì, ecco, grazie per l'aiuto. Intanto, prima di andare ai mercati, la dottoressa Bertelè rimane con noi, 800 24 00 24, vi ricordo di andare a raccogliere, a leggere il consiglio del giorno nel nostro Daily Lab www.radio24.it, cliccate Daily Lab e leggete e mettete in pratica, naturalmente seguite il consiglio dei nostri esperti. Essere e benessere. Per curare e guarire è fondamentale saper andare al di là della fisicità, comprendere che l'anima comunica attraverso il corpo e che ogni guarigione è sempre innanzitutto una guarigione dell'anima. Dottoressa Bertelè, questo lei ha scritto nella quarta di copertina e questo è anche un po' il taglio che vogliamo dare alla nostra trasmissione, proprio per far capire ai nostri ascoltatori che partendo da un disagio, noi adesso stiamo analizzando i nostri piedi, possiamo in qualche modo riuscire ad avere delle informazioni molto importanti per recuperare la salute e il benessere a livello generale del nostro organismo. Certo. Quindi è importante che noi sviluppiamo, come lei insegna nel suo libro, questo ascolto del nostro corpo. È un'arte che si impara un po' difficilmente, dottoressa Bertelè, però, o sbaglio? Beh, penso che in realtà facciamo di tutto per non ascoltarlo, perché il corpo ha un linguaggio talmente evidente e chiaro che forse facciamo più sforzi per non ascoltarlo che per ascoltarlo. È importante proprio darci il tempo e dare a noi stessi l'onestà di prendere, di considerare quello che il corpo ci dice, di considerare il sintomo come un messaggio, non come qualcosa che disturba e che bisogna togliere assolutamente, diciamo come un'occasione di conoscenza di noi stessi, come un'opportunità, ecco, non una cosa assolutamente da combattere. E io credo che l'ascolto del corpo sia una competenza molto importante che deve acquisire e sviluppare anche e soprattutto chi pratica sport, sia a livello amatoriale che a livello professionistico. In linea con noi abbiamo Orlando Pizzolato, grande maratoneta italiano, direttore della rivista Correre. Orlando, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Orlando, lei ha imparato, immagino, ad ascoltare il suo corpo, a decifrare i segnali che manda, lo insegna anche agli atleti e agli sportivi che segue. Ci dà qualche consiglio e ci mette magari in guardia da eventuali trappole o errori? Sì, è vero, perché negli sportivi la motivazione, vale a dire la spinta al risultato, prevale rispetto alla fisicità. Si vorrebbe fare di più di quello che sono i propri limiti e quindi si fanno più chilometri, si corre quando non si è a posto, tutto in nome del risultato. E invece bisogna, perché l'organismo cresca, vale a dire migliori in relazione agli stimoli, ci sia anche la giusta fase del recupero, non solo fare ma anche, mettiamola, riposare fa parte dell'allenamento, vuol dire recuperare e lasciare tempo all'organismo per assimilare questi stimoli. Andiamo a casa. Sei sicura? Andiamo a sì, casa. Sì, ma a piedi? Sì. Ma perché io riesco a stento a far due passi? Ma quel giorno Fantozzi ebbe finalmente dai suoi superiori un incarico di fiducia e di grande soddisfazione. Soldato, tu che sei un volontario. Ma... corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta. Scusi, ma sono 42 chilometri. E 195 metri. Ah, beh, e allora... È differente. Vai. Vado. Acqua. Acqua! Acqua! Acqua! Manca 20! Meno 10! Meno 3! Meno 4! Meno 1! Eccomi qua! Parla! Abbia un momento! Ecco, porto notizie da Maratona! Che è successo? Dove? A Maratona, forza! Non me lo ricordo più! Io vedo già subito Fabio Cantadori che regia la parte tecnica e Laura Vanossi che appena mandiamo Fantozzi loro ridono, in effetti. Però io vorrei tornare, prendendo proprio spunto dalla maratona, di Fantozzi ai piedi, perché Orlando, ci sono nella corsa due tipi di appoggio, uno col tallone e l'altro sull'avampiede, ma come si fa a distinguerli? Beh, sono appoggi che nascono dalla conformazione fisica. Credo che 8 podisti su 10 abbiano un appoggio che va a toccare terra sul tallone. È una conformazione strutturale questa, e quindi le scarpe, si può vedere dal consumo della scarpa. Il consumo della scarpa è prevalentemente sul lato del tallone, ma non proprio sotto l'osso, il calcagno, ma dalla parte esterna, cioè c'è proprio un'usura. Poi invece bisognerebbe completare la fase di spinta del piede. Questa è una caratteristica invece, quest'ultima, dei velocisti, che hanno più forza, più elasticità e reattività. Diciamo che gli amatori, prevalentemente i corridori della domenica, i podisti dilettanti, hanno un appoggio sul tallone, ma non devono modificarlo, fa parte della conformazione fisica. Si può però migliorare con esercizi di forza, con esercizi di reattività. Abbiamo Renato che ci chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno Renato, benvenuto. Buongiorno signora Carbone, complimenti intanto dovuti per gli argomenti trattati. Grazie. Niente, saluto anche Orlando che sono un suo abbonato e leggo sempre le sue con molto piacere, e anche la professoressa. Niente, io chiamavo perché da 3 anni che non corro più, purtroppo, perché una domenica rientrando da una corsa, premetto che io sono iperpronatore, porto plantari, correndo, niente, rientro una domenica, non riuscivo più a rientrare, una vescica sul, come avete parlato voi adesso, sotto all'interno del piede, sotto il calcagno, e via. Guardo la scarpa, bucato il contrafforte, non riesco più. Da allora mi sono iniziate tutto un calvario, male alle ginocchia, male alle schiena, ho fatto risonanze varie alle ginocchia e alla schiena, un'ernia insomma, lato sinistro, da lì tutto una fermato con la corsa, perché ho detto molto probabilmente su io che non sono a posto, non so cosa fare. Mi sono rivolto a osteopati, chirurghi, ognuno ha detto la sua, alla fine non ne ho capito niente. Sì, perché più pareri si sentono, più si entra in confusione. Io ne do due: Orlando Pizzolato, un parere tecnico, ma poi vorrei ritornare alla dottoressa Bertelé, perché anche sul tipo, sul modo in cui si corre, sui problemi che derivano, no, da questa attività che è nata, no, per pratichiamo per stare in forma, per aiutare anche il nostro umore a stabilizzarsi, nascono una serie di problemi. Orlando? Sì, è vero, cioè, di solito quello che si verifica nella parte alta del corpo ha un'origine alla parte bassa, vale a dire l'appoggio del piede, perché quando mettiamo il podista mette il piede per terra, il carico è molto rilevante, il carico che ricevono le strutture. Quindi, come diceva Paolo, se non sbaglio, un appoggio in iperpronazione non dà stabilità a tutto il resto, a tutta una serie di strutture scheletriche, dalla tibia alle ginocchia al bacino. Quindi bisognerebbe stabilizzare l'appoggio. Il condizionale che uso lo riporto, perché non è così semplice. Certo. In effetti la cosa migliore sarebbe pensare come hanno fatto con la Torre di Pisa: se è troppo pendente bisogna sostenerla in qualche maniera, e quindi o le scarpe oppure dei plantari. Però è semplice, la risposta sembra semplice, la pratica in realtà è fatta da tentativi, ma non per dire sminuire il lavoro degli specialisti. Però va verificato un appoggio, un plantare messo sui piedi, poi non è la soluzione finale, va verificato, perché ci possono essere alterazioni strutturali più in alto, come dicevo, il ginocchio e bacino. Dottoressa Bertelé, vengo da lei. L'attività sportiva è proprio anche un modo per imparare ad ascoltare il proprio corpo, perché spesso, partendo da quei dolorini che si avvertono, dalla fatica o ancora semplicemente per migliorare le prestazioni, si presta più attenzione attenzione e si capisce che il nostro corpo è qualcosa di più, no? Di una semplice macchina. Ecco, sì, penso che la cosa molto importante sia proprio non considerarlo solo una macchina che deve dare delle prestazioni. Sì. È fondamentale rispettare i propri limiti, come giustamente diceva prima Pizzolato, è importantissimo che una persona si adegui ai suoi limiti e non voglia superarli. Questo vuol dire anche non potenziare ad esempio dei muscoli in maniera indiscriminata, quelli che sono antagonisti rispetto al gesto che si vuole fare, in modo di non aver frenato un movimento. Se un piede ad esempio appoggia in pronazione, come diceva l'ascoltatore, vuol dire che ha un accorciamento eccessivo dei flessori plantari, che sono il tibiale, non elenco tutti i muscoli, comunque vuol dire che c'è un accorciamento eccessivo. Bisogna riequilibrare il piede perché appoggi meglio, e questo vuol dire un lavoro sulla muscolatura che coinvolge il ginocchio, la schiena, il bacino, risalendo in alto in modo di riequilibrare la muscolatura dall'alto verso il basso. Io seguo moltissimi sportivi di altissimo livello e di varie anche specialità. Ecco, bisogna proprio cercare di continuamente riequilibrare una muscolatura che è sollecitata all'inverosimile in alcune specialità. E questo vuol dire non vuol dire di smettere di fare lo sport, però di mantenere costantemente un obiettivo di riequilibrio, sì. Abbiamo Paola che ci chiama da Catania all'800 24 00 24, prima delle informazioni sul traffico. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Ah, posso fare già la domanda? Okay. Sì, domanda, direi che è arrivato il momento. Sì. Allora, la prima è che ho una bambina di 2 anni e 8 mesi, volevo capire se già era il momento di preoccuparsi, insomma, se le gambe non sembrano perfettamente allineate. Sì, la dottoressa... Sì, la seconda è se queste scarpe, diciamo, che hanno la suola gondola, che favoriscono l'appoggio al tallone, senza citare insomma la marca, ce n'è di vario tipo, se sono effettivamente efficaci, come dicono, per la circolazione, per la schiena. Dottoressa Bertele, riesce a dare 2 risposte rapidissime a Paola, che così noi andiamo a sentire anche il traffico? Dunque, se la deformazione non è particolarmente accentuata intorno ai 2 anni, si può aspettare, prima cosa. L'altra cosa, in effetti è uno dei grandi argomenti di questo periodo, io sconsiglio queste scarpe perché penso che sia molto più importante camminare in maniera naturale. Se siamo fatti con i piedi in un certo modo, è giusto che li usiamo così, non che perché la suola a gondola sollecita in maniera eccessiva ad esempio il tratto cervicale alla lunga e quindi ha degli effetti collaterali anche negativi, con i tacchi, poi se uno vuole provarli per un po'. Perché no? Esatto. 800 24 00 24. Orlando Pizzolato, la dottoressa Bertele rimangono con noi, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Essere e benessere. Sicuro di essere nel gruppo giusto? 10 minuti al miglio, no? C'ero anche la settimana scorsa. Sì, ma il fatto è che non c'è mai stato uno carino nel gruppo. Tutti quelli carini sono nel gruppo dei 7 minuti. Quindi sono il più carino dei lenti, è questo che stai dicendo? Tu hai già corso la maratona? Gli ultimi 4 anni. Wow! Tu invece? È la prima volta. Pronto? Ho il collo bloccato. Ha chiamato Charlotte mentre mi stavo asciugando i capelli. Tutto il mio corpo ha risentito della lunga maratona. Mi dispiace, come posso aiutarti? Non lo so, mi fa male persino reggere il telefono. Sbrigati a venire. Senti, ho... Grazie! Orlando Pizzolato, abbiamo bisogno di lei. Come abbiamo già anticipato, non si corre solo con i piedi, no? Lei ci ha spiegato che insomma c'è dell'altro. La dottoressa Bertelè sta sottolineando che insomma siamo molto di più di una macchina e comunque siamo tutti collegati. Io vedo delle persone, io abito vicino ad un parco e vedo delle persone che ad esempio tengono le braccia, le mani, come se fossero un po' dei pugili. Altri invece che corrono con le braccia penzoloni giù. Hanno importanza, immagino, anche le braccia nella corsa? Sì, perché danno supporto al movimento del corpo, però se poi si va a vedere come corrono i keniani, che corrono distinto, anche lì a volte ci si sorprende che non abbiano un gesto tecnico specifico, però i keniani sono talenti per la corsa, allora poco si preoccupano se corrono bene perché tanto vanno forte. Sì. Se corressero, avessero dei limiti, a un certo punto anche si interrogherebbero nella certo. tecnica. Nella corsa, come dicevi prima, nei parchi che si vedono podisti correre, hanno voglio dire, si devono evitare le tensioni, quindi va bene magari le mani come i pugili, però in realtà non vanno serrate, le dita vanno tenute rilassate, le spalle anche. Io credo che spesso mentre si corre molti dicono che è noioso, ma in realtà se un podista, un un amatore corre e pensa, rimanda al pensiero di come si sente, cioè di ridurre le tensioni, di abbandonare le braccia lungo il corpo, di sentire di correre morbido e non pestare i piedi per terra, un po' di alcune caratteristiche della tecnica di corsa si possano già migliorare in maniera molto semplice. Dottoressa Bertelé, noi, lei ha suggerito diversi percorsi per dare risposte a quello che il nostro corpo ci dice. Abbiamo parlato del metodo Mézières, abbiamo passato in rassegna anche lo yoga, il tai chi, ma a livello di attività sportiva ci sono delle persone che non amano massaggio, non amano ad esempio queste discipline più dolci. Qual è un'attività sportiva che è rispettosa, no, dell'intero corpo, quindi delle fasce muscolari, che restituisca un po' benessere? Comunque la marcia veloce e la corsa, come diceva prima Pizzolato, cioè molto rilassata, non forzata, fa molto bene anche dal punto di vista delle ossa, dell'osteoporosi, della respirazione cardiaca. Ricordiamoci che tutto il corpo deve essere coinvolto in maniera corretta in una nostra attività, oltre naturalmente al tai chi, a quello che abbiamo già detto, ecco. Il nuoto ci piace? Il nuoto non tanto. Come non mai? È perché per il nuoto comunque forziamo molto la schiena, cioè intanto dobbiamo mantenere una certa quantità d'aria nel corpo proprio per galleggiare e quindi si va in contrazione inevitabile alla lunga col diaframma. Questo è un conto, è quando uno si fa la sua nuotatina tranquilla al mare o in piscina, non è quello il problema, è quando uno fa veramente tante vasche e incominciano i problemi sulle spalle e sulla schiena. Insomma, corriamo come Orlando Pizzolato, facciamo come lui, Orlando, magari. Magari. Io ringrazio Orlando Pizzolato per essere stato con noi, spero di sentirla presto, grazie mille. E io, dopo aver così guardato i piedi, abbiamo cercato di ascoltarli, capito che insomma sono tutti collegati, vorrei invitarvi a guardare i piedi sotto un'altra luce, affidandoci ad un'arte antica, la riflessologia plantare. Ne parliamo con Marco Mazzotta. Buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Laura e buongiorno a tutti. Riflessologo, terapista della Fondazione Apostolo, di cui appunto è direttrice sanitaria la dottoressa Bertelé. Sui piedi e sulle mani, Marco, sì. Ci sono tutti gli organi. Esatto. C'è la mappa proprio del nostro corpo umano, e quindi quello che diceva prima Laura è molto importante, che ascoltando, come dice il proprio libro, ascolta e guarisci il tuo corpo, io cerco di ascoltare quello che dice il piede. Io non sono medico, non faccio diagnosi e non faccio cure, sì, ma mi prendo cura quando ci sono dei segnali molto evidenti che il piede evidenzia. Io nasco da paziente perché ero malato, ho avuto per 7 anni una nevralgia del trigemino che mi ha avvicinato a questa arte antichissima, perché risale agli antichi egizi e poi è stata portata in Cina, finché nel 1800 è arrivata in America e poi nel 1860 è arrivata in Europa. Grazie alla riflessologia io ho risolto il mio problema di trigemino, risolvendo prima un problema meccanico, quindi la medicina tradizionale serve assolutamente per risolvere qualsiasi tipo di intervento, e poi la riflessologia ha interrotto questo mio meccanismo che avevo acceso a livello trigeminale, che mi ha fatto soffrire per 7 lunghissimi anni, che non auguro a nessuno. Dottoressa Bertelé, da medico, come si avvale della riflessologia, che possiamo considerare, come ci ha detto appunto Marco Mazzotta, una terapia complementare, in quanto il riflessologo non è un medico, quindi non cura, non fa diagnosi, ma non si occupa proprio del piede? Noi lo integriamo nel nostro lavoro, nel nostro approccio, perché è molto utile quando ci sono delle problematiche specifiche dei piedi, quindi dolore ai piedi, in modo che Marco riesce, attraverso il lavoro di ammorbidimento, è la rigidità che dà dolore, quindi il massaggio del piede è fondamentale per ammorbidire un piede che fa male. E poi d'altra parte appunto ci sono questi punti riflessi che ci danno informazioni. Le dico ad esempio, io mi sono messa in cura da Marco perché avevo dei mal di testa e attraverso il lavoro con lui ho capito che stringevo i denti di notte e facendo il lavoro con lui sono riuscita a rilassare, a non avere più il bruxismo, insomma. E questa cosa è stata un'integrazione importante del lavoro che già facevo su di me. Marco, noi vorremmo trattarci i piedi da soli, ma questo non si può fare, no? Perché bisogna avere... È molto difficile, ecco. Perché bisogna avere... Poi l'autotrattamento non interrompe va. I circuiti, perché il corpo deve essere rilassato, quindi è meglio farselo fare, logicamente. O se no uno si può trattare a mano, perché anche sulla mano ci sono gli organi, chiaramente sono meno sviluppati che non sul piede, però anche sulla mano abbiamo tutti gli organi. Però allora, senta, ci dice proprio, noi stiamo chiudendo, mi stanno sgridando... Un punto sulla mano da toccare per rilassarci? Il centro della mano, sotto il dito medio, dalla parte e anche sotto il piede, sotto i cuscinetti delle dita, nella parte centrale andiamo a rilassare tutto l'intestino. Fantastico, ma noi adesso chiederemo a Marco Mazzotta di tornare a trovarci, perché vogliamo fare proprio una mappa completa dei punti. Ringrazio Marco Mazzotta, ringrazio la dottoressa Bertelè, buona giornata a voi e vi aspetto domani. Essere e benessere.